Cronaca Barbietà, ci riproviamo ad andare nuovamente in diretta. Ma vi ricordiamo che la trasmissione sarà replicata martedì 19 gennaio 1999, sempre alla stessa ora, sempre sulla stessa frequenza. Vi ricordate la nostra scorsa diretta? Microfoni caduti, silenzi, musica e quant'altro. Ci scusiamo e speriamo che oggi vada meglio, anche se appunto abbiamo questo sciopero in entrata e in uscita della nostra trasmissione della sigla delle cassette. Però di almeno una cosa sono sicura questa volta. Sono certa di fare meno errori di lettura, perché i fogli che ho davanti a me sono stati digitati su PC, si dice così, e stampati non più ad aghi ma a getto d'inchiostro. Ma senti come parlo bene, da vera tecnica informatica. Io che per mia storia ho sempre pensato che PC fosse unicamente il Partito Comunista, e gli aghi li ho sempre odiati perché mi rimandano due orribili visioni, le iniezioni e il cuscito. Ad ogni modo anch'io mi sono convertita all'era tecnologica, è proprio vero, mai dire mai. La mia recente conversione ha molte motivazioni, ma ne parleremo più avanti, perché questo, almeno tra di noi, rivolgersi verso mezzi tecnici più sofisticati, ci ha fatto pensare. Ma ora permetteteci una prima pausa in musica che ci dà, come al solito, modo di mitigare il nostro nervosismo, sempre presente quando andiamo in diretta, e ci dà modo di organizzarci qui in studio. Finito il 1998, eccoci alle soglie di questo 1999. Gli ultimi mesi il panorama politico femminista ha, a mio parere, offerto una serie di stimoli per la ripresa di un discorso interrotto da parecchio tempo. In ordine cronologico mi riferisco all'incontro a Todi del 7-8 novembre, promosso dalla Commissione Nazionale per le Pari Opportunità dal titolo Per una cultura dello stare insieme di uomini e di donne nei luoghi del governo e dei beni comuni. E poi all'incontro Spostamente Femministi, organizzato da ONDA, Organizzazione Nazionale Donne Autonome, tenutosi a Roma il 21-22 novembre. E per ultimo all'incontro La politica senza politica, promosso dal Forum delle Donne di Rifondazione, che si è svolto sempre a Roma il 12 dicembre. Le tre iniziative, chiaramente diverse per le analisi politiche e le motivazioni che le hanno rese possibili, hanno secondo me il pregio di farci conoscere una parte di quell'universo politico femminile e femminista che esiste nel nostro paese e d'altra parte ci danno elementi su cui ragionare. A Todi, all'incontro organizzata da Inviti, sono state chiamate una serie nutrite di donne inserite ovviamente, come da titolo, in luoghi del governo e dei beni comuni. Abbiamo avuto modo di leggere la relazione di Alessandra Bocchetti. Nel suo scritto rintracciamo il percorso politico da lei intrapreso da tempo, per intenderci dalla teoria della differenza, e portato oggi alla sua conseguenziale evoluzione. Le donne, dice Bocchetti, hanno finalmente raggiunto la libertà femminile, ma ancora l'assetto simbolico in cui ci troviamo è maschile. Bisogna aprire una seconda fase della lotta. Dal suo documento leggiamo: per questo è necessario aprire una seconda fase di lotta, che sarà molto più dura della prima, perché per gli uomini non si tratterà di lasciare solo i posti di potere e di privilegio, ma di cambiare l'idea profonda che gli uomini hanno di se stessi, che è profondamente significata nell'idea di Stato, uno Stato ordinato, retto, governato solo da loro, a cui le donne possono avere accesso solo per chiamata, per cooptazione. Per fare questo non basta più un movimento come quello degli anni 70-80, né bastano le donne della politica istituzionale. Ci vuole un movimento più grande di cui facciano parte quelle donne che conoscono già il governare, che conoscono le regole del gioco, che siano forti e autorevoli, che abbiano in un certo qual modo già vinto e che abbiano voglia di far vincere le altre donne, le giovani donne di questo paese e le donne della loro storia. Altrimenti rischiamo di lasciare un'eredità imperfetta, altrimenti nessuna veramente avrà vinto. Vi propongo di cambiare un paradigma. Finora abbiamo pensato al mondo, al potere, allo Stato come ad una piramide che dovevamo scalare. Siamo arrivati ad un certo punto e ci siamo accorte che non riusciamo più ad andare su di tanto. Allora proviamo a fare un altro movimento. Partiamo dall'alto e scendere sarà più facile. Questa è la proposta di Bocchetti. Peccato che, come al solito, ma ci siamo abituate, tenga conto solo dell'elite della società femminile, peraltro non rappresentativa dei percorsi politici, di pensiero e delle lotte delle donne. E a mio parere, non indicando il femminismo come strumento di cambiamento nell'analisi e ottica politica, si rischia, come più volte da questi microfoni ho ricordato, di trovarci alla fine con una società in cui i posti di comando sono occupati da donne, ma dove nulla sarà di fatto cambiato nell'ordine delle cose. Seen you, my old friend. I remember your eyes, how they would shine. Those crazy times when you and I fooled around. I remember the time we fell in love, didn't know how to say goodbye. ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane, all'interno dello spazio autogestito femminista di Radio Onda Rossa sugli 87-900. Continuiamo questo breve relazionarvi sulle iniziative politiche femministe e femminili svolte negli ultimi mesi dell'anno appena trascorso. A novembre, Onda ha organizzato l'incontro Spostamenti Femministi ed è certamente l'iniziativa che più ci ha interessato, anche se non abbiamo potuto parteciparvi, ma è nostra intenzione dare un contributo attivo alla loro proposta. Sarebbe complicato e lungo per radio intervenire sui tanti punti sollevati alle donne di Onda nel loro documento di presentazione. Vogliamo però informarvi, a grandi linee, della loro posizione politica. La loro analisi politica tiene conto della monosessualità della politica, si pongono il problema della rappresentanza femminile, riflettono sul disagio femminile nei confronti della politica, si interrogano sulla necessità di aprire una fase di interlocuzione tra soggetti femministi e femminili, propongono una modalità di dialogo tra differenze, e indicano nel femminismo il carattere trasformativo nelle relazioni personali e collettive. A differenza di Bocchetti, le donne di Onda pensano che il cambiamento da operare nella società non può essere soltanto come far entrare le donne nelle istituzioni, ma come inventare nuove modalità di governo della vita collettiva a tutti i suoi livelli. Indubbiamente, scrivono, le visioni servono e servono molto di più se partono dalla domanda giusta, che non è la conquista del posto, ma l'invenzione di un processo. Per fare questo, pensano, si debba attraversare una fase di transizione delle pratiche attuali verso la realizzazione di nuove modalità organizzative. E su questo propongono un dibattito tra le donne che, a vario titolo, si sono organizzate nel femminismo e nella politica. Il 12 dicembre si è svolto l'incontro promosso dal Forum delle Donne di Rifondazione Comunista. Alcune di noi hanno partecipato alla prima parte della giornata. Pensavamo fosse un'iniziativa aperta, più assembleare, un appuntamento interlocutorio tra donne, mentre l'incontro era di preparazione per il prossimo congresso. Comunque, se di fatto ci siamo sentite appesantite da una modalità altra da noi, negli scritti che abbiamo avuto modo di leggere poco agio, ci è interessato molto l'intervento di Elettra Deiana, della direzione nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, in cui indica nei soggetti e nell'incontro tra soggetti uno dei problemi di fondo attuali e spinge affinché nel bilancio del suo partito ci sia il superamento delle caratteristiche proprie di partito monosessuato. Interessante è stato anche il contributo inviato al forum da Lidia Menapace. Insomma, ci sembra di poter leggere in queste iniziative alcune possibilità di riflessione politica e ci auguriamo che questo nuovo anno veda riprendere un dialogo interrotto tra di noi da troppo tempo. Per tutto coloro che fossero interessate ai documenti citati, potete richiederli a noi tramite radio oppure tramite fax al 6824201 del Centro Femminista Separatista. It was August, summer of 82. You had that rusty old car, and me, I had nothing better to do. You picked me up, we hit the road, baby, me and you. We shot out of town, driving fast and hard, leaving our greasy skid marks in people's backyards. We were going nowhere, just driving around. We were going in circles, and me, just hanging on. Like in that Annie Dillard book, where she sees that eagle with the skull of a weasel hanging from its neck. Here's how it happened. Listen. Forever. We were going nowhere, just driving around. You did all the talking, and me, I didn't make a sound. And if I open my mouth now, I'll fall to the ground. And if I open my mouth now, there's so much I'd say. Like I can never be honest. Like I'm in it for the thrill. Like I never loved anyone. And I never will. Nowhere. We should keep hanging on. together forever. I remember that old coat my grandma used to wear, made of weasels, biting each other's tails, a vicious circle, an endless ride on the back of an old woman. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane, all'interno dello spazio autogestito femminista di Radio Onda Rossa, sugli 87-900, il 491750 per mettersi in contatto con noi. E nell'ambito dell'opera di riscatto che il coordinamento si propone di effettuare per nome e per conto di tutte le donne che non hanno parola, oggi vogliamo parlarvi di due donne molto, molto speciali. Nome Lara Croft, data di nascita 14 febbraio 1967, altezza 1,68 m, peso 56 kg, misure 97, 56, 87, capelli castani, occhi marroni. Storia: Lara è la figlia di Lord Croft ed è stata educata con lo scopo di farle seguire le orme del padre nel brasonato mondo dell'aristocrazia. Dopo aver completato la scuola, di ritorno da una vacanza sciistica, il suo aeroplano precipita però nel cuore dell'Himalaya. Presto Lara impara a difendersi da sola nella giungla e comincia ad apprezzare questa vita semplice e solitaria. Negli 8 anni che seguono l'incidente aereo, apprende moltissime notizie sulle civiltà antiche. La sua famiglia la disereda e lei inizia a viaggiare raccogliendo fondi per il suo nuovo interesse nell'archeologia. Una definizione e una proprietà di movimento stupefacenti, un fisico super allenato e una mira che non ammette sbagli, capace di cavarsela tra cunicoli e caverne, trappole e imboscate, mostri e nemici di ogni sorta. Questa è Lara Croft, l'eroina di un videogioco interattivo diventato un successo mondiale. Lara, con il suo moderno look da esploratrice combat girl, t-shirt militare, shorts khaki, pistole allacciate in cintura e anfibie ai piedi, è sulle tracce di un'antica reliquia. Per portare a termine la sua missione, deve attraversare l'interno di una misteriosa montagna stracolma di insidie e perigli, suddivisa in 3 diverse zone civiltà: quella inca, quella romana e quella egizia. Proiezione dell'io avventuroso di chi gioca, Lara ne diviene immediatamente l'alter ego, grazie anche alla facilità d'uso del sistema di controllo che le consente salti, capriole, acrobazie, tuffi e schivate. Il successo mondiale di questo videogame girl l'ha portata sul giambo schermo del pop tour degli U2, le ha fatto incidere un disco con Dave Stewart, ex Eurythmics, e l'ha fatta incarnare nel suo corrispettivo umano Rona Mitra, che nelle vesti di Lara si presenta ad inaugurazioni di Computer Center e fiere dell'informatica. L'altra donna di cui invece ci preme darvi notizia viene dal Sollevante e il suo nome è Kyoko Date. Kyoko è nata a Fussa, vicino Tokyo, 17 anni fa, figlia primogenita di una tranquilla coppia che gestisce un sushi bar, frequentato in gran parte dagli avieri della base americana di Yokota. Kyoko è alta 1,62 m, ma sta ancora crescendo, ha una lievissima miopia 0,2 all'occhio sinistro e 0,3 all'occhio destro, per cui normalmente porta gli occhiali. Le sue misure sono 83, 56 e 82 centimetri. Il suo sangue è di tipo A. Il suo fiore preferito è il bucaneve, mentre il film che più le è piaciuto è stato Toy Story. Ha un debole per l'attore Christian Slater, mentre le sue cantanti preferite sono Mariah Carey ed Enya. Kyoko gioca a pallone, prende lezioni di box e ama ballare. A tutt'oggi Kyoko ha inciso un CD, Love Communications, che ha scalato le classifiche giapponesi e riceve tonnellate di posta via email da fans di tutto il mondo. Conduce inoltre un programma radiofonico e presto farà qualcosa anche in TV. Il fatto è che Kyoko Date, di K96, è un idoru, un idolo virtuale il cui corpo è composto da 40.000 poligoni digitali, visibili per ora solo su internet. Kyoko è il primo riuscitissimo tentativo di dar vita ad un idolo per teenagers in laboratorio, dotarlo di carattere e personalità credibili e reali e per farlo interagire in un futuro non lontano con veri umani fuori dal mondo dell'interfaccia. Non ci spiace dirlo, giocare ci piace, perché un po' di sosta tra le pesantezze della vita non guasta. Ma se rimaniamo perplesse di fronte alla creazione dell'idoru Kyoko Date, ci inorridisce l'utilizzo improprio del mezzo informatico a uso e consumo di perversioni orribili, che non riteniamo siano imputabili esclusivamente a degenerazioni sessuali e mentali, ma che rientrano nello schema del sessismo imperante. Burning plastic. I drink a cup of coffee. I try to revive. My mind's blank. I'm barely alive. Nerves are shut, I feel like hell. Guess it's time to check in the puppy motel. In un preciso contesto storico in cui generalmente ci riteniamo insoddisfatte delle nostre vite e anche delle nostre scelte e cominciamo ad accusare i colpi di una stagione politica non più esistente ma sicuramente non già esaurita ed esaustiva, ci troviamo ancora una volta a dover fare i conti con un difetto di comunicazione che da troppo tempo ormai caratterizza il movimento lesbico e quello femminista, ma in linea di massima anche tutti gli altri movimenti che a vari livelli operano per la trasformazione sociale. La comunicazione privilegiata si è in qualche modo interrotta, facciamo fatica a seguire le linee del comune pensiero autonomo, Dio è morto e Marx pure, il muro è caduto e così come il dualismo cartesiano. E tutto quello che ci resta è soltanto il nostro sentirci come isole sperdute nell'oceano della inadeguatezza. Come si fa ad uscire dall'oceano, direte voi? Viene da dire si nuota naturalmente, ma meglio di no, meglio navigare. Da tempo abbiamo parlato della necessità di metterci in rete per tentare la modificazione dei meccanismi sociali esistenti. Ci abbiamo provato in vari modi ed alcune di noi ritengono che a questo punto sia forse giunto il momento di tentare la strada virtuale. Non sarà un caso che improvvisamente la maggior parte di noi è divenuta proprietaria di un computer, sviluppando nel contempo una sensazione affettivo-repulsiva nei confronti di questa macchina. Sarà che l'idea del cosiddetto villaggio globale da una parte risulta intrigante grazie alle mille opportunità che il mezzo telematico riesce a fornire in tempo reale, ma dall'altra questo viaggio elettronico può risultare spersonalizzante e addirittura punitivo a detta di qualcuna di noi. In realtà oggi qualunque cosa si muove in rete, dalla vendita delle saponette alle iniziative dei centri sociali, dalla presentazione dei libri a quella dei grandi progetti. Una volta prese le misure al nuovo mezzo sarà sicuramente una ispirazione muoversi nel cyberspazio, lanciando e rilanciando email in un continuo botta e risposta telematico. Già immagino i nostri elaboratori scaricare una quantità indecifrabile di materiale, proposte, progetti e idee rivoluzionarie che saranno in grado di guidarci alla conquista di nuovi orizzonti e alla presa di un potere nuovo, rispettoso di tutte le soggettività e in grado di elaborare un pensiero dirompente sul mondo. Allora le lesbiche romane sapranno immediatamente che quelle di Bologna e di Milano si sono riunite in un'associazione clandestina che condurrà la lotta di liberazione, espropriando fabbriche da riconvertire in università del libero pensiero lesbico. Le lesbiche di Firenze sapranno in anticipo dell'occupazione da parte delle romane del Palazzo Pontificio in Vaticano e della dichiarazione dell'abbattimento della morale cattolica proclamata direttamente dalla finestra dell'ufficio papale. Folle di donne a Brescia, Napoli e Bari prenderanno le sedi della radio e della televisione di Stato, divulgando i nuovi precetti della libertà femminile. A questa pacifica rivoluzione assisteremo comodamente sedute di fronte allo schermo 15 pollici del nostro personal computer, collaborando con le altre donne via fax e collegandoci con i loro siti internet. Lo scambio delle idee e la circolazione dei progetti correranno veloci sulle autostrade virtuali della nuova conoscenza, e tutto questo accadrà solo sfiorando la tastiera di un computer con un dito. La realtà è morta, viva la realtà virtuale. Perché proprio di questo si tratta, ahimè, di uno scenario virtuale, un gioco divertente da tentare in molte e forse anche di auspicabile applicazione, ma un semplice gioco virtuale. La realtà, quella vera, è ben altra. Crediamo davvero che il mezzo telematico possa risolvere il nostro problema di stallo e mettere in moto le nostre energie e il nostro pensiero? O forse sarebbe bene interrogarci sul perché della non comunicazione, della incapacità di relazione? Mi viene fatto di pensare che il nostro non comunicare derivi non solo da una incapacità di relazione, ma forse piuttosto da una perduta capacità di elaborazione del pensiero critico, veicolo privilegiato per la comprensione dei meccanismi che governano i rapporti fra soggetti e di conseguenza unico mezzo concreto capace di muovere le leve del cambiamento. È pur vero del resto che oggi noi stesse ci mettiamo in gioco molto meno di quanto accadesse 15 o 20 anni fa. Evidentemente abbiamo sviluppato nel tempo un tipo di relazione più complessa, operando anche purtroppo uno scollamento con la realtà circostante. Dobbiamo interrogarci sul perché la parola e il pensiero delle altre donne abbiano progressivamente perso per noi valore di importanza. Laddove ieri l'esperienza personale e il portata di ognuna erano considerati un valore assoluto, la base di partenza per una elaborazione critica, oggi questo pensiero, queste esperienze ci arrivano quando arrivano, ovattate, come un rumore di sottofondo, una impressione sfuggente, e non riusciamo a coglierle appieno. Dobbiamo interrogarci sulla possibilità che l'esigenza della relazione politica possa non essere più prioritaria per alcune di noi. Tant'è che risulta sempre più facile relazionarsi in situazioni di tipo ludico e sempre più difficile farlo in quelle di tipo politico. Nell'era storica del femminismo e del lesbofemminismo, la comunicazione e la circolazione delle idee era favorita, oltre che da un reale contatto personale fra donne, anche e soprattutto dal carattere di rivendicazione sociale che il movimento presentava. Di conseguenza, quindi, l'aggregazione dei soggetti risultava per forza di cose più agevolata. Con la trasformazione dei piani sociali e le varie contaminazioni derivanti principalmente dal fenomeno della globalizzazione, lo scenario è cambiato. Le esigenze si sono diversificate, così come i progetti di azione, e in linea teorica non esiste un pensiero guida di carattere generale. Il movimento separatista, ad esempio, non si riconosce nel carattere rivendicazionista di gruppi di donne come l'arcilesbica e cerca di produrre un pensiero critico, con grande fatica, sulla realizzazione di un nuovo concetto di libertà femminile. Ma nella generale assenza di confronto questa operazione diviene piuttosto complicata e di scarso risultato. È anche vero che per esprimere un pensiero autonomo e una nuova visione sul mondo è necessario riuscire nuovamente a partire da noi stesse per allargarci progressivamente alle altre. Ma se manca il punto di partenza per incapacità, per stanchezza o per altre ragioni che possono essere diverse per ognuna di noi, sicuramente non si può raggiungere l'obiettivo prefissato. La verità è che negli anni abbiamo perso, per qualche meccanismo di sfasamento, l'autorevolezza della nostra parola chiuse nel circolo vizioso dell'opposizione generalizzata, che è stata sicuramente una opposizione critica, ma in molti casi non costruttiva, non avendo noi proposto nelle differenti situazioni le alternative coerenti che avrebbero potuto indicare una nuova forma dell'agire politico, o meglio avendolo anche fatto in certi casi, ma senza riuscire ad individuare gli strumenti che potessero limarne in qualche modo l'approssimazione. L'esigenza dell'apertura si fa quindi sempre più forte per riuscire ad uscire dall'immobilismo generale che caratterizza il momento storico attuale. Proprio per questo alcune di noi hanno pensato che riallacciare il filo interrotto dei contatti con quei gruppi di donne che operano sia a livello politico in senso stretto e quindi nell'ambito istituzionale, raggiungendo le opportune mediazioni, sia con quelle che lavorano nel campo della informazione fatta e vista con occhi di donna, possa essere un primo passo da tentare nella direzione dell'interscambio, lavorando affinché il linguaggio e le pratiche, ad esempio quelle delle donne delle istituzioni, possano risultare corrispondenti con le nostre stesse modalità. Questo tipo di operazione potrebbe inoltre essere funzionale per verificare quale sia il livello della nostra incisività sul reale e su quali e quanti piani sia possibile operare un confronto con singole e gruppi di donne che elaborino un pensiero originale su se stesse e sulla propria visione del mondo. Si tratterà quindi di riuscire a capire se sia possibile realizzare insieme a queste donne, collaborando vicendevolmente, una nuova forma dell'agire politico, creando e seguendo un nuovo tipo di progettualità. Questo significa ovviamente che oltre al mezzo informatico dovremo impegnarci a mettere in gioco la risorsa umana e quindi noi stesse, se realmente sentiamo l'esigenza del cambiamento, così come sembra, e se realmente siamo intenzionati a riprenderci la parola su di noi e su quello che ci circonda. In un'altra trasmissione vi avevamo parlato del romanzo giallo della Scoppettone, Quel che è tuo è mio. Per rimanere in tema di informatica vorremmo leggervene alcune pagine e precisamente quando Loren, l'investigatrice, si reca in un negozio specializzato per acquistare un modem. E mi scuso già da ora per il mio inglese. Non sono timida, forse un tempo lo sono stata, diciamo fine 12 anni, ma dopo no. Non avrei potuto fare quello che ho fatto nella mia vita, non potrei fare quello che faccio. Eppure, a Park Place, sotto la neve, che sembra farina, con gli occhi fissi su J&R, dall'altra parte della strada, voglio darmela a gambe. Voglio fare dietro fronte, ritornare sui miei passi, via da che cosa? Che cavolo mi prende? Ieri sera ero convinta di averle dato KO, di aver relegato nel passato la mia computerfobia. Ma oggi, alla luce giallognola del clima invernale, con le strade impraticabili per le pozzanghere meno ghiacciate, mi sento di nuovo intoppata, come se non avessi diritto di ficcare il naso nei misteri di questo mondo estraneo, un mondo che, in qualche recesso della mia mente, considero ancora territorio degli uomini. Galvanizzata dalla furia che questi pensieri mi suscitano, attraverso la strada. J e R a varie entrate. E quando finalmente scelgo una e, con un volantino in mano, entro nel negozio, mi sento dire che il reparto computer si è trasferito di un isolato. Essendo un'investigatrice, fuori classe, lo rintraccio. Prima di inoltrarmi nel negozio, Tento di farmi coraggio, ricordandomi la facilità con cui ho preso le lezioni di Kip e come ho annientato Elliquette. Dopotutto, se lei che riusciva a usare un modem, perché io no? Milioni di persone usano il modem e probabilmente molte sono donne. Sto dando i numeri. E in ogni caso, che importanza ha? È così semplice. Mi rivolgerò a un commesso e gli chiederò un modem. All'interno, il chiasso è spaventoso. Monitor visualizzano giochi d'azione e il rumore di mitragliatrice e di bombe si intreccia con le voci di clienti starnazzanti e di commessi presi d'assalto. Non vedo nemmeno una commessa. Le donne ovviamente stanno alle casse. Perché meravigliarsi di come mi sento? Anzi, mi sentivo. Guardandomi intorno alla ricerca di un commesso, finalmente ho visto un ragazzo basso con una targhetta sulla tasca della camicia bianca che dice Allen Tupper. Ha un mento quadrato e ben definito, che starebbe meglio a una faccia più grande. Gli zigomi alti conferiscono ai suoi occhi uno sguardo di traverso che scivola nel lascivo. Non importa, so che il signor Tupper mi aiuterà. Mi scusi, sto cercando un modem, affermo con autorevolezza. Quanti baud? Mi chiede. Per un attimo prendo in considerazione l'ipotesi di squagliarmela. Ritornata in me, chiedo furbescamente. Che cosa mi consiglia? Tupper inclina la testa da una parte, uno sguardo quasi tenebroso. A che gli serve? Scorro mentalmente una lista di risposte tutte inadeguate. Sì, è semplice, non è vero? Mi serve per... collegarmi. Tupper nemmeno ci prova a dissimulare il suo disprezzo. Non mi dica, ma è fantastico, ghigna scoprendo piccoli denti macchiati di nicotina. L'irritazione ha la meglio sul senso di umiliazione. Si sta divertendo. Questo è proprio quello che si aspetta da una donna e ci gode. Probabilmente vive per questo il Beota. Decido di regalargli un'esperienza davvero eccitante. In realtà non ci capisco niente di Baud e di Modem. È per questo che mi sono rivolta a lei. Mi sta prendendo in giro? Dov'è finito il detto il cliente ha sempre ragione? Dov'è finita la cortesia? No, rispondo candidamente, non la prendo in giro. La sua espressione accigliata sbiadisce come l'abbronzatura dell'anno scorso. Voglio comprare un modem per un Toshiba 3100SX. Non voglio spendere tanto, signor Tupper, ma mi serve un apparecchio affidabile. Le serve un ICE 2004, afferma lui. Dice? Sì, mi segua. E girandosi dall'altra parte arriccia l'indice. Ci facciamo strada gomitate tra i corridoi del negozio fino a un bancone dietro il quale lui si china per emergere con uno scatolone. Ecco, esclama, risvegliata la vita dalla consapevolezza di avere di fronte una completa deficiente, è un affare. Lo sa quanto costa normalmente un ICE 2004? No. Controlli pure, persino al negozio sulla 47esima. E in posti come quello, sui cataloghi di vendite per corrispondenza, dove le pare, noi siamo i meglio. Un ICE costa $300-400. Centinaia di dollari, non l'avevo previsto. Non posso permettermelo. No, no, no, Coccabella. Questo non è il nostro prezzo. Non per questo modello, che è altrettanto buono, si affretta ad aggiungere. Oh, senta, bella mia, io... Signor Tupper, lo interrompo, incapace di controllarmi. Per favore non mi chiami Cocca né bella mia, va bene? Eh? Non sono il suo tesoro né la sua bella. È stupido dirlo proprio adesso, ma il mio lato femminista prorompe inarrestabile. Ma non sarà mica... esclama con un sorriso cercando di sovrapporsi a ciò che gli pare una mia negazione. Una lesbicaccia? Sì. Eh? Per favore, mi può dare qualche informazione sul modem? Tupper mi fissa incredulo di fronte alla mia risposta affermativa. Ride di nuovo, questa volta come se fossimo complici di una congiura. Ammiccando, riprende il suo sproloquio, anche se ora sembra meno sicuro di sé. Questo piccoletto è il migliore, è ICE, vuol dire fiducia. È come la Sony per le TV. La gente non fa che chiedere apparecchi compatibili con ICE. Ma perché prenderne uno solo compatibile quando puoi trovare quello vero? Che cosa significa 2400 baud? La velocità piccola, la velocità. Inspiro a fondo. Neanche piccola, eh? Gli spiego. Scuote la testa e mi guarda come se adesso fosse più disposto a credermi lesbica. Ci sono modem da 300, 1200, 2004, 9006 baud. Quelli medi sono a 2004 e ti puoi collegare con un 300 e con un 1200. È una velocità discreta. A che cosa serve? A quello che serve a tutti gli altri, dico io. Prodigy? Mi ricordo di aver scorto questa parola nella directory di Lake e di sicuro l'ho vista su qualche pubblicità. Sì. E per le bulletin boards? Eh? Non mi pare che ci fosse nessuna bulletin board nella directory di Lake, ma... probabilmente si tratta della lunga lista di numeri telefonici con nomi pazzerelli. Si sporge dal balcone, il mento gigantesco praticamente contro di me, mentre il suo fiato mi solletica il viso. Vuole fare degli incontri, eh? Salto in alto, mentalmente, fino a toccare il soffitto. Fare degli incontri. Oh sì, caro Tapper, ci siamo. Potrei quasi baciar... No, non potrei, non lui. Tentando di mantenere la calma, gli chiedo di che si tratta. Dunque, baby, in un sacco di queste BBS si discute di faccende tecniche. Oppure servono per scaricare file o per partecipare a conferenze su questo o su quell'altro argomento. Ma ci sono anche quelle altre BBS. Quelli, insomma, dove conosci dei tipi e ti dai gli appuntamenti. E queste quali sono? Domando con fervore. Vuoi nomi? Sì. E che ne so, sono sposato. Qui c'è qualcuno a cui posso chiederlo? Darò pure l'impressione di essere disperata, ma non mi importa. Tapper drizza la schiena, incrocia le braccia al petto e mi squadra. Ma non aveva detto che era una lesbicaccia? Risposta.